Noi andiamo in giro di notte. 26 dicembre. Secondo poveraccio, come chiamo ora il mostro? Restò solo poco con me. Gli 11 davanti alla porta di casa. Sono sempre ancora uguali, con loro non si riesce a nulla, comunque essi sono ben disposti verso di me. L'ombra rimase a lungo in camera mia durante il giorno. 27 dicembre. Il poveretto a lungo con me. Volevo pregare e di colpo era vicino a me e tacqui. Ho visto che è tutto coperto di tumefazioni che sanguinano. Spaventosamente ripugnante, solo che non mi tocchi più. Come è debole il mio amore per quel miserabile, perché mi è ancora sempre ripugnante. E quanto ho desiderato di non aver cuore per lui, ed ecco improvvisamente Caterina in piedi davanti. A me indica la sua bocca che anche era così ripugnante prima. Adesso è tutta splendente. Io fui tanto contenta per lei e lei mi sorrise. Io, sei ancora sempre con me? Lei, no. Io, e perché adesso sei qui? Lei, perché eri debole. Io, sì, sono sempre tanto debole, ma a guardarlo ho ben motivo di aver paura di lui, lo puoi vedere? Lei, no, superato. Lei sparve. Fu una cosa tanto bella e sono riconoscente, che gli spiriti mi aiutino ora a diventare migliore. Anche il poveretto se ne andò presto, io mi sono vinta e gli ho detto, torna presto. È molto triste che alla mia età non abbia ancora compreso il sacrificio, col pensiero è sì, di fatto è no. 28 dicembre. Gianni qui. Poiché egli era così triste, gli domandai il perché. Lui, non mi hai dato niente. Io, scusami, lo so, ti ho trascurato perché anche gli altri mi fanno tanta pena. Adesso provvederò prima a te. Sai chi viene da me oltre che tu? Lui, noi andiamo in giro tutti nella notte. Più tardi venne il poveretto, lo ho osservato bene. Una pelle bruna, e fra mezzo rigonfiamenti e ferite, sicché pensai che il pavimento doveva essere insanguinato. Era ripugnante. Egli mi venne vicino e mi guardò fisso. Io, non posso ancora aiutarti molto, devo prima aiutare qualcun altro. Allora incominciò a urlare e a correre intorno per la stanza. Poi mi venne incontro con un braccio alzato, riuscii in fretta a mettergli di fronte la reliquia di Santa Croce. Egli continuò a ringhiare come un cane rabbioso, ma restò fermo. La sua presenza mi fa venire il batticuore, perché egli mi guarda così sfacciatamente e mi spaventa. Non ha un aspetto triste, soltanto cattivo. Ora incomincia la lotta che ho altre volte subito. Gli devo voler bene, non posso, eppure soltanto quando io amo l'anima avvolta nell'orrore, posso fare sacrifici. L'ombra venne tre volte, sono molto curiosa che cosa ne verrà fuori ancora, non è inquietante, è come un pezzo di parete che si muove. È del tutto singolare ciò che mi intimidisce, e io me ne sono meravigliata spesso. Quelle cosette piccole mi colpiscono di più che non cose veramente spaventose, mi sconvolge il crepitio in camera, poi quando l'apparizione entra dalla finestra invece che dalla porta, poi sentire il respiro vicino a me, fracasso alla parete, eccetera. 29 dicembre. Gianni qui. Ho fatto molte domande ma non ho avuto alcuna risposta. Egli ha pregato volentieri e quando gli detti l'acqua santa, rimase tranquillo. Il poveretto venne più tardi, si ricantucciò in un angolo e mi guardò fisso. Io gli dissi, vieni qui, voglio pregare con te. Perché sei come una bestia? In un attimo fu accanto al mio letto. Quando incominciai a pregare gridò paurosamente ed era come in convulsioni. Un gomitolo sul pavimento. Purtroppo la reliquia della croce non era vicina a me, gli diedi acqua santa. Pian piano il suo crampo si sciolse ed egli rimase disteso sul pavimento. Potei vedere molto bene quanto è grande e coperto di tumefazioni. Il suo viso è soltanto una massa con degli occhi. Si deve commuoversi davanti a una cosa simile. Mi sono alzata e mi sono inginocchiata accanto a lui e gli ho detto: «Perché non mi lasci pregare? Io voglio aiutarti, voglio solo aiutarti, adesso lasciami pregare con te. Vedrai che ti farà bene». Poi recitai il Padre nostro, egli ascoltò quieto ma poi mi strinse col suo braccio spaventoso, fu una cosa molto penosa. Lasciai fare però gli dissi, io ti aiuto più volentieri, se tu non mi tocchi. Egli rimase nella stessa posizione ed io continuai a pregare, e poiché egli singhiozzava destai con lui il pentimento. Vedendo la sua grande miseria io stessa dovetti piangere. Accade qualche cosa di straordinario, egli mi lasciò e si inginocchiò accanto a me. Allora gli ho parlato a lungo della grazia del Natale. Povera creatura quanto tremendamente deve patire. Io gli dissi, non puoi ancora parlare? Egli fece un cenno di no scuotendo il capo. Io, mi capisci? Fece cenno di sì. Adesso siamo diventati amici. Sparì subito. Fu una cosa molto dura. Ma ora sono felice. Fare una gioia ad un'anima è assai più bello che rendere felici le persone. Quanto è buono Dio, io ho sentito la sua presenza come non mai, deve anche essere così. Perché altrimenti nulla potrei. Devo purtroppo affermare che adesso faccio poche cose per me. Sono sempre allo stesso punto e se la sera guardo il mio tavolino non vi trovo niente di buono. L'ombra era di nuovo lì all'ora di mangiare e poi sul corridoio incontrati anche gli 11. 30 dicembre. Gianni qui a lungo, ma qualunque genere di preghiera incominciassi egli era sempre malcontento, cosa che si manifestava con sospiri e agitazioni. Finalmente mi sovvenni del memorare, allora si calmò. Pensai che certamente era stata la Madonna a salvarlo. Così gli domandai, come è avvenuto che ti sei salvato? Nessuna risposta. Io, lo voglio sapere. Lui, madre cordia, misericordia, non si capiva. Io, l'hai sempre venerata. Lui, sì. Queste comunicazioni riscaldano il cuore ed io ne fui felice. Quante di queste domande ho fatto già senza aver risposta? 31 dicembre. Il poveretto qui a lungo, molto inquieto. Mentre si era a tavola venne di nuovo l'ombra, io rimasi a bocca aperta nel bel mezzo della conversazione e tutti dissero, che ti succede, che fai quella faccia? Ed essa divenne ancora più stupita di prima. Una nuova difficoltà, rimaner naturali di fronte al soprannaturale. 2 gennaio. Il poveretto molto difficile, veniva sempre più vicino e gemeva. Non era possibile pregare. Avevo un grande terrore che mi toccasse. Questa cosa è per me la più spaventosa, tutto il mio essere mi si ribella. Fui contenta quando venne Gianni col quale ho potuto pregare. Poi il poveretto se ne andò. Poiché mi sentivo tremendamente stanca, dissi, per favore lasciami dormire, io continuo pure a pregare per te. Lui, che cosa mi avevi promesso? E se ne andò. Io mi sentivo piccola a causa della mia poltroneria. 3 gennaio. Mi sono svegliata di soprassalto. Il poveretto appoggiava le sue mani su di me, fu una cosa terribile. L'ho pregato di allontanarsi e poi ho pregato per lui, ma lui era tanto irrequieto, se ne andò nella mia stanza accanto dove lo sentii a lungo far rumore e fracasso. Gianni qui, piangeva. Gli chiesi, perché sei così triste? Lui, c'è qualche cosa fra me e te. Io, sì, lo so, Ma io devo pregare anche per gli altri. Lui, non devi. Io, ma io ho tanta paura quando non posso aiutare quel poveretto, paura che mi tormenti. Lui, sopporta. E sparì. È molto difficile ciò, che cosa posso fare con quel poverino? 4 gennaio. Venne il poveretto. Io gli dissi che non avrei ancora potuto aiutarlo, finché non era libera l'altra anima. Allora incominciò a gridare e si gettò su di me, cosa tremenda. Più tardi venne Gianni. Io, sei contento di me adesso? Lui, sì. Io, devo fare tutto per te? E per gli altri, niente? Lui, dà di più. Quale introspezione da parte sua, io potrei dare di più se non ci fosse più in me il mio io. 5 gennaio. Il poveretto venne durante il giorno e potei vedere tutta la sua lordura e quanto era ripugnante. Non riesco a spiegarmi che cosa avvolge il suo corpo, forse non è una pelle, ma in ogni modo è tutto pieno di ulcere e tumefazioni. Confrontandolo con la mia stufa potei rilevare la sua grandezza. Egli mi venne incontro con le braccia distese. Io mi rifugiai nella mia torre, non mi venne dietro, poi disparve. 6 gennaio. Durante la notte ebbi dei dolori e non venne nessuno. Cosa straordinaria, però gradita. Il cavaliere in chiesa era domenica.